trenta, trenta sei, quaranta tre. Or sì, ch'io son contenta, sembra temer per me, sembra temer per me. Cinque. Stessa si può, stessa si può, stessa si può.